Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Signori, allora, veloci dinamiti e svelti! Perché? Perché con noi il grande maestro di vita, Don Ansimento! Buongiorno, buongiorno a tutti! I numeri sono altamente personalizzati. Ricercare i numeri fortunati non vuol dire prendere un libro, prendere una matita e dare dei numeri che vengono così alla caso. No, ricercare i numeri fortunati vuol dire tuffarmi dentro della vostra vita, del vostro destino. Mario Pacheco Donascimento arriva in Italia negli anni 90. Quanta nostalgia, i bei tempi in cui mi guadagnavo il pane guardando la televisione dalla mattina alla sera, e uno degli argomenti che più mi affascinavano erano i pomeriggi con Vanna Marchi. Vanna Marchi con la figlia Stefania, con il mago Donascimento, facevano delle macumbe vere e proprie, si erano specializzate nella possessione con tutta la mitologia possibile e immaginabile del Condomblé, evocavano deità, facevano rituali, non scannavano galletti lì per lì perché naturalmente sarebbe stato cruento, ma insomma andavano in una sorta di estasi mistica. Questo perché? Perché poi vendevano dei rimedi molto efficaci. Ora, di Vanna Marchi possiamo parlare, di Vanna Marchi possiamo parlare tranquillamente, liberamente, perché Vanna Marchi ieri ha scontato la sua pena, ha estinto il suo debito con la società, è tornata nuovamente libera, ha scontato tutte le pene, quelle principali, quelle accessorie. Insomma, Vanna Marchi a 72 anni ha detto: tornerò in televisione. Beh, per prepararci al ritorno di Vanna Marchi in televisione, oggi di lei parliamo. Quanto ha inciso nella vostra esperienza? Quanto avete pensato che con un pugnetto di sale di cucina avreste risolto i vostri problemi? Perché credevate, almeno negli anni 80, negli anni 90, non so se ancora succede, a tutto quello che dicevano i maghi della televisione? A tra poco. Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Melog. Cronache meridiane. Allora, signori, avete una domanda da fare al maestro per quanto riguarda la vostra famiglia? Vi piacerebbe che la vostra famiglia fosse serena, che vostro marito non urlasse più dentro casa, ma che fosse una persona socievole, normale, gentile? Chiamate il maestro, magari lui qualcosa può fare. Maestro Donascimento, al quale io adesso chiederei una grazia. Chiamate, telefonate, anzi mandate, telefonate all'800240024, soprattutto mandate, per gentilezza, lo dico mai, molti sms al 349-238-6666, perché ve lo chiedo? Così mi scorrono dal mio monitor tutti gli sms della trasmissione precedente e non leggo tutti i rimedi contro il cerume, perché a quest'ora mi dà un po' senso. Quindi mandate sms, così tutti i rimedi del cerume, come si toglie il cerume, con i coni, con gli bastoncini, con l'acqua calda, così. È un problema che di cui non voglio farmi carico in questo momento. Vanna Marchi, ripeto, fu il fascinatorio esempio di una televisione in cui poteva accadere di tutto. La televisione nazionale la chiamò addirittura negli eventi liturgici, nel calendario televisivo, più importanti. Partecipò come attrice nella riedizione satirica dei Promessi Sposi fatti dal trio Lopez, Solenghi, Marchesini, in cui faceva la televenditrice che vendeva rimedi contro la peste. Era talmente dentro il sistema della televisione di quegli anni felici, in cui la televisione sembrava centrale, parlare, occuparsi di televisione era il più potente strumento professionale che uno potesse avere. Oggi la televisione è secondaria rispetto alla centralità di altre suggestioni. Allora la televisione era tutto. Vanna Marchi era tutto dentro la televisione. Vanna Marchi era allo stesso tempo l'elemento che tutti temevano, su cui tutti ridevano, dicevano che era un grande fenomeno, che era una vera animale da telecamera, però allo stesso tempo Vanna Marchi faceva i suoi affari in televisione. Vanna Marchi è stata condannata per truffa, per bancarotta, per associazione a delinquere qualcosa avrà fatto, ma ha scontato la sua pena. Non abbiamo verso di lei un senso di vindice proseguimento di quella che è stata la sua pena, però ricordiamo quello che ha fatto. Vanna Marchi vendeva l'edera che ritagliava dalla siepe sotto il sufficio come rimedio non so per quale tipo di malessere, vendeva del sale da cucina dicendo che questo serviva contro il malocchio. Vanna Marchi vendeva dei numeri del lotto personalizzati, ma erano gli stessi per tutti. Ma ammesso che ci siano dei numeri personalizzati, non potete veramente credere che una persona vi dà dei numeri del lotto con i quali potete vincere al lotto? Per lei sarebbe meglio giocarseli lei e vincere al lotto. È un'equazione semplicissima, ma come mai nessuno in quella televisione la faceva? Come mai decine e decine di persone hanno venduto casa per comprare il sale benedetto di Vanna Marchi? Ma ve lo ricordate il mago Don Nascimento? Era il re dei paraculi, bastava guardarlo, era un signore brasiliano che aveva trovato l'America, ha trovato questa madre, questa figlia che l'avevano affigliolato, messo dentro casa e lo tenevano come elemento esotico. Parlava un po' questa sorta di lingua fra il brasiliano e fra il bolognese, prometteva e minacciava, faceva credere che lui era in contatto chissà con quale entità sciamanica, ma allo stesso tempo era il catalizzatore di tante persone che giorno dopo giorno telefonavano alla televisione e davano dei bei soldini per un pugnetto di sale. 800 24 00 24, vedo che già siete in tanti, quindi Vanna Marchi ha colpito molto più profondamente di quanto abbiano appurato i giudici. Maurizio, buongiorno. Sì, se Maurizio sono io da Terni, sì. Volevo portare questa mia esperienza. Io ormai sto in quiescenza, ho fatto per tanti anni il formatore, nel senso che organizzavo e conducevo dei corsi per le tecniche di comunicazione. E per me Vanna Marchi è stato un esempio, è stato un libro su cui ho studiato, un sussidiario. Io sono stato uno dei primi affascinati cultori della capacità di Vanna Marchi di fare quello che faceva. Sì, era una truffatrice però a tutti gli effetti, fascino, sì, era una truffatrice a tutti gli effetti. Sì, non entro nell'aspetto morale, sì. Diciamo in questo momento non mi riguarda, dico solamente, anziché come tra l'altro giustamente è stato fatto, mettere in galera la signora, far scontare la pena che ha dovuto scontare. Non mai ha fatto, lei diciamo, fra i tanti casi in cui in Italia non c'è certezza di pena, per Vanna Marchi la pena c'è stata, quindi non c'è nulla da dire, se l'è fatta anche con dignità, perché non è che si sia lamentato particolarmente, si è fatta i suoi anni, si è fatta la sua attività diciamo di reinserimento sociale, ha lavorato in un bar, insomma è un capitolo chiuso. Però voglio capire, gli italiani che le hanno creduto, secondo lei, su quale leve lei muoveva? Aspetti che non lo sentivo, diciamo, perché stavo passando la qual macchina. Erano i punti chiave, i punti di forza per Vanna Marchi per convincere un pubblico mediamente alfabetizzato, perché almeno aveva un televisore in casa, a spendere soldi per comprare l'edera che lei potava dalla piantina sotto casa? Quale sia stato il meccanismo con cui lei entrava nella mentalità delle persone, perché effettivamente lei riusciva a dire a quelle persone che volevano sapere i numeri del lotto piuttosto che comprare lo scioglifancia, lei sapeva esattamente quello che doveva dire per entrare dentro. La mia domanda un po' provocatoria è questa: ma anziché mettere in galera la Vanna Marchi, ma non sarebbe stato, e non è tuttora valido un principio per cui bisognerebbe educare i telespettatori o comunque coloro che leggono i giornali a guardarsi da questi imbonitori? Io continuo ancora a vedere dei succedani di Vanna Marchi, perché le doti che aveva lei questi altri non ce l'hanno. Sì, sono degli emuli molto paldi, ma mi stanno scrivendo gli ascoltatori: esiste sempre un margine in cui l'irrazionale fa presa. C'è gente che ancora va in giro a guardare le Madonne che sanguinano, a guardare i crocifissi che piangono, fa pellegrinaggi in luoghi miracolosi dove attendono che venga un miracolo. Il Papa di ultima generazione sta prendendo distanze da Medjugorje, che era un grande apparato scenografico in cui sembrava che potesse accadere chissà che. Sta prendendo le distanze. Esiste una parte forte in noi che vuole essere appagata di irrazionale. Sono brave le persone che riescono comunque in qualche maniera a entrare in queste pieghe non sempre sotto tutela della nostra razionalità, ma io ho ancora amici e amiche fortemente alfabetizzati, grande livello di cultura, mi dicono: sai, quella lì mi ha fatto i tarocchi e ci ha preso, mi ha detto delle cose terribili sulla mia vita, ma ci ha preso, delle cose mi sono accadute veramente, non sapendo che in realtà tutte quelle informazioni alla taroccara gliela date lui stesso o lei stessa. Marco, buongiorno. Spenga la radio. Si è autospento. Salvatore, intervenuto il mago Don Nascimento. Salvatore. Pronto? Ecco. Buongiorno. Sì. Intanto una piccola nostalgia per quando Nicoletti parlava di televisione, che era qualcosa di... che ogni tanto rimpiango. Lo so, ma non è più la televisione la stessa, è inutile parlarne, ho detto tutto il decibile. Infatti, volevo sottolineare proprio questo, come probabilmente il pubblico è rimasto uguale, la televisione si è adattata, cioè da Vanna Marchi a Barbara D'Urso, io vedo che c'è un imbolimento costante e continuo. Ma è un po' diverso, guardi, non vorrei generalizzare, è un po' diverso. Per Vanna Marchi la gente mette a mano al portafogli, è molto diverso. Barbara D'Urso, chi per lei, che è un genere televisivo, non c'è soltanto lei, c'è le altrettante signore che fanno altrettanta televisione basata sui casi lacrimosi, costruiti, inventati, spalmati, articolati, pettinati. Freccero, che oggi passa come il guru della buona televisione, Freccero si vantava di aver inventato le storie pettinate, cioè le storie taroccate, con il pomeriggio della Rai, con i finti casi umani, casi quasi umani, l'inventò Freccero. Oggi inutile che fa il pulito, fu lui che disse che i casi andavano pettinati, cioè aggiustati. La televisione è un aggiustamento totale, la televisione è il grande macchina della mistificazione, è la lanterna magica, quello ci fa credere tutto, il contrario di tutto, è un evocatore di fantasmi, abbiamo già detto tutto. Ma io mi meraviglio ancora la gente mettesse mano al portafogli. Siamo talmente di braccino corto rispetto ai nostri consumi, come faceva la gente a spendere per del sale da cucina? Perché Vanna Marchi era brava, Vanna Marchi sapeva farti credere, entrare quello che tu avevi come retroterra subculturale nella tua coscienza, che quella persona, l'amante di tuo marito, ti odia e quindi ti fa il malocchio, e tu c'hai il mal di pancia e la diarrea perché quella ti ha fatto qualche malocchio, e soltanto con il sale del mago do nascimento tu potrai tornare alla normalità delle tue funzioni. Marco. Sì, buongiorno Nicoletti. Io avrei dato un premio a Vanna Marchi, non 7 anni di carcere. A carcere è giusto, che ha compiuto dei reati, quindi è giusto che una volta che uno paga quando, a carcere... Quando lei dice che Vanna Marchi, io non sto difendendo Vanna Marchi, però se lei dice che Vanna Marchi compie dei reati, se io metto un chilo di sale dentro un bicchiere d'acqua e la mattina mi accorgo che il sale non si è sciolto e do 3.000 euro ad un nascimento per farmi sciogliere il sale. Sì, perché non il sale è, non si scioglie, ma, in effetti. Esatto, ma non è normale. Non è Don Nascimento che commette un reato, sono io che sono un coglione, sì, che gli do 3.000 euro. Questa è la tesi di molti che la difendevano, diciamo, guardate, ma qual è il reato? Se un coglione mette il sale nel bicchiere e la mattina dopo lo trova sul fondo e pensa che è il malocchio. Esatto. Deve morire, certo. Secondo me allora io non voglio difendere, ripeto, Vanna Marchi, ma nessuno ha puntato una pistola alla tempia a quelli che hanno speso i 5.000, 10.000, 50.000 euro. Nessuno. Vanna Marchi gli ha chiesti, loro gli hanno dati. Se uno non sa che un chilo di sale non si può sciogliere dentro una tazza di latte, è un coglione che se gli ha dato 3.000 euro, 5.000 o 10.000, tutto là. Sì, poi ci sono stati degli atti un pochino più violenti, poi Striscia la Notizia ha fatto delle intercettazioni, c'era una signora che da questo punto di vista si è prestata come cavia, c'erano minacce, venivano minacciate disgrazie, era un pochino più articolata, non era poi esattamente così limpida, non è che uno andava col sale, datemi i soldi per il sale. C'erano tutte le fattispecie, ma su questo io non vorrei tornare sulla vicenda giudiziaria che è esaurita, vorrei tornare sul fatto perché credevate a Vanna Marchi. Stefano. Ciao Nicoletti, io sono un credulone nato, ti ho ascoltato ancora da molti anni e sono andato al Museo del Cairo con una registrazione delle trombe di Tutankhamon. Ah sì, lo fece ascoltare. Quella era una vera registrazione, non era una bufala. Era verissima. Sono andato in gita appunto al Museo del Cairo e mi sono portato il vecchio mangiacassette con la registrazione che avevi trasmesso per radio, che incitavi tutti ad andare al Museo del Cairo per vedere se risuscitava il faraone. Io come un credulone. Ma questo non l'ho mai detto, guardi Luca, adesso diamo la pausa, poi spiego, lei rimanga in ascolto, vi riprendo un po', perché io stesso ho introdotto un mito metropolitano nell'immaginario nazionale delle trombe del faraone, trombe di Tutankhamon, che esistevano davvero, era una vera registrazione. Io magari forzai un po' la mano dicendo che portassero sfiga, ma in realtà qualcuno portano sfiga davvero. Tra un istante con le trombe del faraone, preparatevi. Melog. Cronache meridiane. Ecco, queste sono le trombe di Tutankhamon. Le ho mandate per qualche mese alla radio negli anni 90, è successo un casino in tutta Italia. La gente le registrava, le mandava nelle segreterie telefoniche, allora non esistevano i cellulari, dei nemici, oppure raccontava quello che accadeva. Mi ricordo, chiamarono all'Università La Sapienza, si era bloccato il sistema informatico di tutta l'università perché hanno mandato questo file. È un file delle vere trombe di Tutankhamon, ricordate, fu scoperto il sepolcro di Tutankhamon dall'archeologo inglese Howard Carter nel 22. E tuttora è conservato al Cairo assieme alle sue trombe. Alla BBC nel 39 fecero un esperimento, suonarono davanti ai microfoni della BBC queste trombe e si bloccò la BBC per 2 giorni, non poté più trasmettere. Allora erano gli albori, mi sembra che fosse l'anno 1986 87, che ne so, 88 forse, tanta gente non sapeva nemmeno cosa fosse. Io trovai in rete, grazie al loro ottimo Andrea Borgnino che lavorava con me, lo trovai io da Torino, ero un ragazzotto senza arte ne parto, oggi un dirigente Rai, e trovammo questo file, cominciamo a mandarlo in onda dicendo che portava sfiga, e la gente scriveva, telefonava, si creò un caso nazionale, mi chiamarono i direttori dei grandi giornali, dice: per favore, queste trombe vanno in onda durante la riunione di sommario la mattina e tutti ascoltano le trombe, le mandano ai colleghi e quindi ci crei confusione, non le mandare più, stiamo sempre con le mani a grattarci le palle. Fu divertente, poi smettemmo, però fu sufficiente, se in quel momento c'è una grande confidenza ciò che accadeva nei mezzi di comunicazione di massa, perché l'ascoltatore che ci ha chiamato andasse al Cairo, vero? Come è accaduto? Sì. È accaduto durante una gita, un'escursione che si faceva normalmente. Da Sharm si andava a visitare il Museo del Cairo e quindi ancora memore di queste trombe, di ciò che raccontavi, io mi avevo portato il vecchio mangiacassette. Eh sì, perché non è che c'era lo smartphone col file MP3, col mangiacassette, con la cassetta. Esatto, e quindi tra i seri facendo veramente in compagnia e ho messo a tutto volume vicino a Tutankhamon l'audio delle trombe che avevi registrato. E cosa è successo? Praticamente niente. E che ne sa lei? E che ne sa lei? No, non lo so. Il tempo delle mummie dei faraoni non è il nostro tempo. Quello che per lei sono 5-6 anni, per lui è un istante. È un battito di ciglia mummificate. Non è detto se lo riveda un giorno bussare alla porta e apparire tutto lì mummificato. Poi c'aveva la mummia di Tutankhamon, faccia ridere, perché era bellissimo. C'ha un pistolino di 2 centimetri, mummificato anche quello. E mi ricordo ci mettevamo con il fotomontaggio la faccia dei colleghi, la facevamo girare. Qui si arrabbiavano tanto. Ma torniamo a Vanna Marchi, scusate, il tema è questo. Abbiamo dato una digressione per far capire che in realtà l'irrazionale è sempre affascinante da cavalcare ed essere lambito. La vita irrazionale è noiosissimo, è scontato. La vita quotidiana con tutta la sua prassi, sì, ce la sopportiamo. Ci piace sempre immaginare che oltre la soglia del tangibile esista qualcosa. Per qualcuno è un atto di fede, per altri è una divagazione poetica. Vanna Marchi, come dice giustamente un ascoltatore, non era proprio uno stinco di santo. Lei giocava su persone che avevano tumori, malattie gravi, persone anziane, e minacciava fortemente le persone che poi non cascavano nell'abbindolamento del sale da cucina o dell'esorcismo del mago Don Nascimento. Striscia la Notizia operò quella volta come una vera inchiesta giornalistica reale e concreta, e fu quello la goccia che condannò Vanna Marchi. Allora, signor, lei adesso cosa intende fare? Mi dispiace, devo rinunciare, non ce la faccio proprio. Allora lei rinunci, io vado dai carabinieri. Va bene. Perché lei, signora, si merita di essere veramente, lei merita tutto il male del mondo, signora. Allora mi spieghi perché il maestro ha dovuto lavorare? Guardi, io stanotte non ho mai dormito, abbia pazienza. Sì. Ho paura. Io le assicuro, lei non ha dormito stanotte, lei non dorme più, signora. Saluto. Va bene. Questa era Stefania Nobile, la figlia di Vanna Marchi, che si arrabbiava con la cliente, voleva rinunciare al trattamento. Cioè, come, il mago Don Nascimento ha lavorato tutta la notte per lei e adesso non ci vuol dare, non so quanto era, 1 milione, 500.000, non so esattamente qua. Questa aveva ripensato, dice: no, guardi, non ci ho dormito stanotte, sono soldi miei, non ve li do. E il mago ha lavorato inutilmente, lei non dormirà più, e scatta l'anatema di Don Nascimento, poi è scappato in Brasile, nessuno l'ha più visto, chissà che farà adesso in Brasile, avrà aperto un bar probabilmente sulla spiaggia di Acapulco, alla faccia degli italiani che gli hanno dato soldi in cambio del sale. Walter, buongiorno. Sì, buongiorno. La sua testimonianza, importantissima. Ah, è molto semplice. Intanto 75 anni, Vanna Marchi aveva l'ufficio in Galleria Cavour a Bologna e prima del sale, prima di tutto sto ambaradam, La Vanna Marchi trasmetteva su una radio locale un discorso commerciale come adesso, che fu un avamposto. Un'avanguardia, lei era all'avanguardia, sì. Sì, e commercializzava un qualcosa che tuttora sono le creme per le rughe, d'accordo? Scusi la mia ignoranza. Sì, lei vede lo sciogli pancia e la crema per le rughe. Sì, le creme per le rughe nella faccia, via, e urlava, fate schifo! Però attenzione, c'è qualcosa di serio. Lei ha preparato un magazzino di queste creme, efficaci, eccetera, che poi all'ultimo... E premetto Bologna, se lei compra anche un profumo per la casa, al tempo era gestito da tre fratelli, per cui erano loro che gestivano i profumi, gestivano tutte queste cose. La lobby delle cremine bolognesi, famose cremine bolognesi. Sì, allora Vanna Marchi la prepara un magazzino di creme, un magazzino intero, l'ultimo timbro dell'allora sarebbe USL attuale, non glielo dà e fallisce con 2 miliardi quando un appartamento costava 20 milioni e poi tutto il resto poi è venuto da sé. Beh, oddio, è stata anche condannata per bancarotta, adesso non so esattamente com'è. Comunque, diciamo, nel suo passato aveva un impero economico, un magazzino di cremine che facevano bella la pelle e liscia l'epidermide, che in realtà gli era rimasto sul gobbo. Però si è rifatta con le pillole sciogli pancia, queste pilloline che Vanna Marchi, me lo ricordo ancora, portava delle coratella di mucca, di maiale, le sbatteva sul tavolo e diceva guarda che schifo, che poi lei non è che proprio fosse una silfide, capito? Non si vede perché, non si capiva perché lei non usasse per lei le pillole antipancia. Comunque detto questo, ci stava anche il fatto che Vanna Marchi vendesse prodotti per la bellezza. Poi dopo sono arrivati i chirurghi plastici patinati che vanno in televisione, che si mettono le mascherine colorate e che hanno rovinato completamente una classe di femmine che oggi sono irreversibilmente dei mostri, grazie comunque alla televisione che ha promosso questi chirurghi. Lorenzo. Pronto? Buon Lorenzo. Sì, salve. Oh, non chiamano donne oggi, chissà perché le donne non chiamano questa mattina. 800240024. Signore, voi che eravate il target numero uno di Vanna Marchi per lo sciogli pancia, per le cremine, per il sale, perché i clienti erano soprattutto femminili, la gente truffata erano soprattutto donne, chiamate e dite la vostra. Lorenzo, buongiorno. Sì, salve, ma io penso che gli uomini abbiano bisogno di grande coerenza, tutto ciò che al di fuori della coerenza li destabilizza. Diciamo che il sale che si scioglie riporta le persone nella coerenza. Diciamo, lo stratagemma secondo me era questo, insomma, a grandi linee. No, lei giocava sul fatto che, come quelli che ti levano il malocchio mettendo l'olio, un po' d'olio su un piatto pieno d'acqua, e se dell'olio che si scompone poi si ricompone, quello toglie il malocchio. Ma è uno scherzo, è un trucchetto da vecchi di paese in Umbria degli anni 40, capito? Mettono un po' d'acqua nel piatto, ci buttano delle gocce d'olio, l'olio si sparpaglia e poi si riunisce, perché l'acqua e l'olio poi si sa che fanno questo effetto, e quello era segno. Si vede questo tondino e il malocchio, e quindi tolgono il malocchio. Sono stratagemmi da imbonitore di paese. La mia meraviglia è che in una Italia post-industriale alfabetizzata, negli anni dell'edonismo reganiano, in cui gli italiani sembravano più aperti verso l'innovazione, verso la cura del proprio progresso, non soltanto basilare ma anche delle parti accessorie, poi credessero come fossero dei poveri contadini dei periodi più bui nella piazza del paese con in mezzo l'imbonitore, a quello che diceva Vanna Marchi. Stefano da Bergamo. Buongiorno e grazie per i complimenti per la trasmissione. Allora, mi rifaccio all'intervento che aveva fatto un ascoltatore poc'anzi sostenendo che Vanna Marchi era un'ottima comunicatrice. Vanna Marchi non era per nulla un'ottima comunicatrice, ha solo avuto l'intuizione malefica in questo caso di andare a vendere dei prodotti e vendere dei sogni a persone che ne avevano bisogno. Ha fatto leva sulla debolezza delle persone. Quel risultato l'avrebbe ottenuto chiunque avesse fatto quel tipo di lavoro, tanto che in quell'epoca la televisione era costellata da maghi e tutti facevano affari d'oro. Vanna Marchi ha avuto la capacità malefica di industrializzare il sistema, facendo appunto leva sulle debolezze delle persone. È un po' come quando andiamo dal medico e abbiamo un problema, chiaramente il medico è autorevole, ci mettiamo completamente nelle sue mani, lo sappiamo tutti, problema, deve investire 1000 euro in una cura specialistica, troveremmo quei soldi nel giro di un secondo. Ecco, Vanna Marchi faceva questo. Oh, Vanna Marchi, però, Vanna Marchi, bisogna capire adesso, poi lo capiremo nell'ultima parte della missione, qual era il plus di Vanna Marchi rispetto ai tanti. Allora, ancora esistono i maghi e gli imbonitori, figuriamoci, esistono medici che prescrivono diete per le persone con autismo, esiste di tutto, esiste, figuriamoci, il mondo degli imbonitori ha sempre un vasto gregge pronto ad alimentare comunque la loro cupidigia nell'approfittarsi dei più deboli. Ma allora fu veramente un fenomeno, lei rispetto agli altri ce la ricordiamo, dell'infinità degli altri maghi ce la ricordiamo meno, un po' meno, perché lei era smaccata la sua maniera di chiedere denaro in cambio dell'artificio. E l'artificio era basilare. Gli altri magari proponevano rituali complicatissimi, macumbe che richiedevano settimane, sortilegi che richiedevano libri della magia. Lei semplicemente un pacchetto di sale, la cosa più semplice, alla portata di tutti. Era basica, semplice e lineare nel suo approfittarsi truffando della buona fede degli altri. Fermiamoci un istante, tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Come state? Bene? Io sto benissimo, grazie. Signori, oggi sto particolarmente bene, pur essendo particolarmente, mi ripeto, emozionata, perché dopo 5 anni, dico ben 5 anni, c'è il grandissimo ritorno dello scioglipancia firmato Vanna Marchi. Volete uno scioglipancia? 2, 3, 4, 5, 6, quelli che volete li potete avere. Non esistono numeri telefonici, come avrete ben visto. 800 24 0024. Giuro, non mi è mai accaduto da quando conduco questo programma, questa radio, che non telefonasse mai nemmeno una donna. E c'è qualcosa sotto. Signore mie, mi state deludendo. Come mai non telefona nemmeno una donna per parlare di Vanna Marchi? Come è così indicibile il vostro punto di vista rispetto a Vanna Marchi? Non è che voi siete quelle che ancora hanno l'amica che fa i tarocchi, che ancora vanno a guardare l'oroscopo in fondo al giornale, che ancora, se magari qualcuno vi guarda in una maniera un po' strana e vi dice tu, magari qualcuno ti vuol male, ci credete, viene il batticuore e cercate subito il rimedio, cominciando dai fiori di Bach, poi andando avanti, cercando il maestro di vita, cercando il personal coach, facendo i corsi via internet per avere fiducia in voi stesse. Mario, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Nicoletti, grazie per aver richiamato. Dunque, io volevo dire questo, che non è la capacità di Vanna Marchi che sa vendere, è la questione che si rivolge a gente, come dice il professor Zichichi, culturalmente privi di difese immunitarie, perché a questa gente viene imbonita dai mass media, perché non c'è giornale oggi in Italia che non pubblica l'oroscopo, e soprattutto la televisione pubblica, invece di occuparsi della scienza, che siamo nell'era della scienza, parla di oroscopi, tipo Capodanno c'è persino una trasmissione tutta dedicata all'oroscopo. Sì, questo lei ha ragione, esiste una zona limacciosa in cui viene accreditato quello che può rimanere nel campo del folklore, della credenza e anche simpatia, come qualcosa esistente. Mettere l'oroscopo insieme alle notizie del telegiornale o assieme a un programma che racconta i fatti è dannoso, è pericoloso, accredita il fatto che colui che legge gli oroscopi è una persona che ha delle basi di certezza, come se non fosse un semplice turlupinatore, magari più simpatico, magari con nessuna capacità e possibilità di delinquere, però è comunque qualcuno che vi vende un'illusione, poi potete comprarla. Ma il caso di Vanna Marchi è ben diverso. Mi scrive un ascoltatore, dice: anche quelli che promettono che lo yogurt fa bene, scioglie la pancia, sono i truffatori. Vi racconto un episodio velocissimo. Un famoso yogurt che promette, appunto, che grazie a una sorta di verme, non so come si chiami, la pancia diventa piatta. C'è il servizio marketing che dice: soddisfatti e rimborsati, se non avete l'effetto che volete vi rimborsiamo. Nessuno naturalmente scrive. Un simpatico signore di Viterbo che io conosco comprò 5 confezioni di yogurt, staccò le etichette e le mandò al servizio marketing dicendo: non ho ottenuto l'effetto. E sulla voce c'era scritto: spiegate, dettagliate qual è stato il vostro problema. C'è scritto: non ho cacato. Gli ha risposto il marketing dopo un po' e gli ha rimborsato il prezzo dei 5 yogurt. Jonathan, buongiorno. Buongiorno. La mia esperienza è un po' diversa, però io ho partecipato alla Fiera della Magia, dove ci sono... Che è la fiera della presa per il culo, diciamo, è divertente, ma è questo, Ma no, c'è anche qualcosa, no, perché poi Magia e Mistero, quindi ci sono anche delle persone qualificate che hanno... Ma qualificate a far che? A far che? Giochi di prestigio? No, Mistero anche parlano... Vabbè, no, spieghi. Vabbè, forse hai ragione lei. Certo che c'ho ragione, scusi. È la fiera della presa per il culo. A me fa ridere parlare coi maghi. Mi diverte, ho studiato tutti i libri possibili di magia, ma uno che oggi fa la fiera della magia, cosa può dire? Mi spiega come si fa il gioco delle tre carte, ma mi risolve la vita, mi fa parlare col nonno morto, mi porta nell'Olimpo degli dèi. Cosa fa? Mi trasforma dal siero dell'eterna giovinezza? Cosa mi fa? Cosa mi fa un mago? No, di solito... Ho visto più che altro cartomanti, letture varie, profezie varie, eccetera. Se ne fosse una che si è avverata prima ancora che la cosa avvenisse, se l'avevo già profetizzato. Nostradamus coincide sempre quando il fatto è già accaduto, ci sarà sempre una quartina che coincide. La profezia, l'ambiguità della profezia, che può dire tutto il contrario di tutto. Ah, ecco, ferma una donna. Resta lì, Jonathan. Valeria, buongiorno. Oh, salve, Nicoletti. La prima donna che chiama. Molto lieta. Come mai non chiamano le donne, Valeria? Allora, presumo, io sono cresciuta comunque in Francia fino a 20. Ah, ecco. Non chiamano le donne italiane, quindi chiamano le francesi. Sì, questo non lo so, comunque sono anche italiana. Il punto di insomma, una chiave di lettura che mi sembra non sia stata data, o almeno in parte, è che io rimasi colpita e dire poco quando vidi quella, sentì soprattutto questa incommensurabile aggressività, insomma una cosa mai udita, a maggior ragione che provenivo da un contesto dove c'erano tre reti nazionali. Sarebbe stato impossibile in Francia verificarsi uno scempio di questo tipo. Guardi, le dico, Valeria, Vanna Marchi è stata ospite di importantissimi programmi di prima serata su Rai 1, quindi non è che c'era l'ostracismo verso Vanna Marchi, ci ridevano tutti, andava ospite, era un personaggio, tutti sapevano che truffasse in realtà, però alla fine stava simpatica a tutti, non si sa perché. Ma a me non è stata simpatica per niente, perché era talmente tanto palese quanto fossero fandonie, cioè francamente non esiste, eppure non avevo l'età che avevo oggi, di una persona che insultasse, cioè ci furono connivenze anche per consentire che una persona così palesemente disonesta, dunque a discapito della protezione dei più deboli, creduloni, di cui io non facevo parte, dessero soldi, dunque qualcuno ha intascato soldi, non solo Vanna Marchi, perché non puoi dare uno spazio pubblico in televisione. Lei pensi, poi qui finisce la trasmissione perché la sigla ci porterà via e dopo ci taglia che è brutto. Quando comincia a essere la fine dell'anno, lei vedrà che gli importanti contenitori giornalistici della nostra televisione, dove si trattano tutte le sere fatti che riguardano l'attualità, la cronaca, il costume, la salute, la politica, l'economia e via dicendo, chiameranno tutti i maghi, perché è tradizione chiamare i maghi a fine d'anno e ognuno fa la profezia sull'anno nuovo. Beh, anche quello è una sorta di essere complici comunque di venditori di fumo, di grandi illusionisti. I grandi illusionisti una volta avevano almeno l'onore di essere eretici, se li prendevano li bruciavano nelle piazze, quindi si godevano e si guadagnavano il loro tornaconto con il rischio che qualcuno poi li cospargesse di pece e di piume. Oggi hanno in realtà la visione, la possibilità di essere esposti dalla sala del trono degli dèi che comandano e gestiscono l'opinione pubblica, quindi oggi non c'è nulla di riprovevole anche per i venditori di fumo. Alla prossima.